te l'ho detto, ama il tuo prossimo, ma tu ama solo chi merita. Ti hanno detto devi perdonare, ma tu perdona solo chi perdona. Ti hanno detto porgi l'altra guancia, ma non era questo il senso della frase. L'hanno tradotta male per toglierti ogni luce. È il tempo di finirla con queste litanie che servono ai potenti per fare zozzerie. Un uomo che in coscienza uccide, ruba e umilia è di per sé un dannato e ride del peccato. Gesù certo era un santo, ma i dannati li malediva, li ha mandati in mezzo ai porci ad affogare nella pena. L'amore è nella vita e non appartiene a nessuna chiesa. Ogni uomo ha la sua coscienza, va protetta, va difesa. Ti hanno detto porgi l'altra guancia, ma non era questo il senso della frase. L'hanno tradotta male per non farti ribellare. L'umanità è distrutta da uomini senza rotta. Predicano saggezza, ma la loro lingua non ha bocca. Da piccolo ti uccidono ed innescano paura solo per allontanarti dalla sorgente pura. Riempiono ogni tempo ripetendo all'infinito, sino a quando ogni figlio diventa un assassino. E poi vanno in processione a raccontarsi balle, e guai a chi non rispetta le loro insulse stelle. È il tempo di lasciare queste sporche strade fatte per soli uomini senza alcuna fede. È il tempo di scrollarsi di dosso questo letame. La sola strada possibile è data a chi ha cuore. Faranno il putiferio pur di non perdere i loro beni, ma non avrà mai pace chi ha tradito il Padre dei Cieli. Si svuoteranno i tempi di ogni loro ipocrisia. Sarà un nuovo mondo ed ogni uomo sarà un messia. Ti hanno detto porgi l'altra guancia, ma non era questo il senso della frase. L'hanno tradotta male per non farti ribellare.